Mr. Bloom sfogliava svogliatamente le pagine delle terribili rivelazioni di Maria Monk e poi del capolavoro di Aristotele. Caratteri storti, raffazzonati, tavole, bambini arrotolati a palla dentro uteri rossi di sangue come fegati di mucche macellate. Ce n'è un mucchio in queste condizioni, in questo momento, in tutto il mondo. Tutti a spingere coi loro crani per uscire fuori. Nasce un bambino ogni minuto da qualche parte. Mrs. Purefoy. Mise da parte i due libri e dette un'occhiata a un terzo, Racconti del ghetto di Leopold von Sacher Masoch. Già letto, disse, mettendolo da parte. Il negoziante lasciò cadere due volumi sul banco. Sti due sono buoni, disse. Le cipolle del suo fiato esalarono attraverso il banco dalla sua bocca rovinosa. Si chinò per fare una pila degli altri libri, se li strinse contro il panciotto sbottonato e se li portò dietro la tenda sporca. Sul ponte O'Connell molte persone osservavano il grave portamento e il gaio abbigliamento di Mr. Dennis J. McGinney, professore di danza, eccetera. Mr. Bloom, solo, guardava i titoli. Belle tiranne di James Loverbeach. Conosco il genere. L'ha letto? Sì. Lo aprì proprio così. Una voce di donna dietro la tenda sporca. Ascolta. L'uomo. No, non le piacerebbe molto. Già preso una volta. Lesse l'altro titolo. Dolcezze del peccato. Più nel suo genere. Vediamo. Lesse ad apertura di pagina. Tutti i dollari che le dava il marito venivano spesi nei grandi magazzini in gonne sontuose e costosissimi pizzi. Per lui, per Raoul. Sì, questo qui. Proviamo. La sua bocca aderì a quella di lui in un lascivo bacio voluttuoso, mentre le mani di lui cercavano le curve opulente del déshabillé. Sì, prendiamo questo. La fine. Sei in ritardo, disse con voce roca, scrutandola con uno sguardo sospettoso. La bella donna si liberò del mantello guarnito di zibellino, rivelando le sue spalle regali e la sua palpitante carne opulenta. Un sorriso impercettibile le correva sulle labbra perfette, mentre si volgeva tranquilla verso di lui. Mr. Bloom lesse di nuovo. La bella donna. Un'onda di calore si rovesciò dolcemente su di lui, umiliandogli la carne. La carne cedeva ampiamente tra le vesti sgualcite, il bianco degli occhi che si alzava languente in su. Le narici gli vibravano all'odor della preda. Umori fluidi del suo seno. Per lui, per Raoul. Sudore cipollino delle ascelle. Colla di pesce appiccicosa. La sua palpitante carne opulenta. Tocca, stringi, compressa, sterco sul furio di leoni. Giovane, giovane. Una donna anziana, non più giovane, uscì dal palazzo di giustizia con la Corte Suprema, la Procura del Regno, l'Avvocatura dello Stato e la Pretura. Avendo assistito alla Corte Suprema, al caso di alienazione mentale Potterton, nella sezione dell'ammiragliato, alla citazione per istanza unilaterale dei proprietari del Lady Cairns contro i proprietari del Tre Alberi Mona, nella corte d'appello al rinvio a giudizio nel caso di Harvey contro la compagnia di assicurazioni marittime. Colpi di tosse catarrosa agitarono l'aria nella libreria, gonfiando tende sporche. Spuntò fuori la testa grigia spettinata del negoziante e il volto rosso, mal rasato, che tossiva. Si raschiò rudemente la gola, sputò catarro per terra, ci mise sopra la scarpa, ripulendolo con la suola, e si chinò facendo vedere una tonsura di pelle viva con qualche pelo intorno. Mr. Bloom lo contemplò. Cercando di dominare il respiro agitato, disse: Prendo questo. Il bottegaio alzò occhi ingommati di vecchia cispa. Dolcezze del peccato. disse, dandoci sopra un colpetto. Buono. L'imbonitore alla porta della sala di vendite all'asta, Dillon, agitò ancora 2 volte il campanello e si guardò nello specchio dell'armadietto segnato col gesso. Dilli Dedalus, girellando sul marciapiede, udiva gli squilli del campanello, le grida del banditore all'interno. 4 scellini e 9 pence, quelle graziose tendine. 5 scellini. Tendine confortevoli, si vendono nuove a 2 guinee. Nessuna offerta su 5 scellini. Vanno per 5 scellini. L'imbonitore alzò il campanello e lo scosse. Barang! Il bang della campana dell'ultimo giro spronò alla volata finale i ciclisti che correvano per il mezzo miglio. J. A. Jackson, W. E. Willie, A. Monroe e H. T. Gunn, col collo teso e vibrante, affrontarono la curva della biblioteca del college. Mr. Dedalus, tirandosi lunghi baffi, girò l'angolo di Williams Row. Si fermò vicino alla figlia. Era ora, disse lei. Stai dritta, per amor di nostro Signore Gesù Cristo, disse Mr. Dedalus. Che vuoi, imitar tuo zio John che suona la cornetta con quella testa sulla spalla? Dio bonino. Dilly si strinse nelle spalle. Mr. Dedalus le mise le mani sulle spalle e gliele inarcò all'indietro. Stai dritta, ragazzaccia, disse. Ti si torcerà la spina dorsale. Lo sai cosa sembri? Lasciò cadere di colpo la testa in avanti e all'ingiù, aggobbendo le spalle e rilassando la mandibola. Smettila, babbo, disse Dilly, ti guardano tutti. Mr. Dedalus si raddrizzò e si tirò di nuovo i baffi. Hai trovato soldi? Chiese Dilly. E dove vado a prenderli? Disse Mr. Dedalus. Non c'è un cane in tutto Dublino che mi presti 4 pence. Un po' ne hai, disse Dilly guardandolo negli occhi. Come fai a saperlo? Chiese Mr. Dedalus furbescamente. Mr. Kernan, soddisfatto dell'ordinazione ricevuta, camminava baldanzoso per James Street. Lo so che ne hai, rispose Dilly. Non eri allo Scotch House poco fa? Non c'ero, disse Mr. Dedalus sorridendo. Sono state le monachine a insegnarti a essere così impudente? Ecco, le porse uno scellino. Guarda un po' se riesci a farci qualche cosa, disse. Scommetto che te ne hanno dati 5, disse Dilly. Dammi qualcosa di più. Aspetta un momento, disse minacciosamente Mr. Dedalus. Sei come tutte le altre, vero? Una muta insolente di cagnette, da quando è morta la povera mamma. Ma aspetta un momento, vi darò io una lezione coi fiocchi a tutte. È delinquenza organizzata questa. Ma io mi libererò di voi. Se tirassi le cuoia non ve ne importerebbe nulla. È morto? È morto quello del piano di sopra. La piantò e seguitò a camminare. Dilly lo seguì di corsa e lo tirò per la giacca. Beh, che c'è? Disse fermandosi. L'imbonitore suonava il campanello dietro di loro. Barang! Dio ti fulmini, maledetto fracassone! Urlò Mr. Dedalus, voltandosi contro di lui. L'uomo, conscio dei commenti, scosse il batacchio ciondolante del campanello, ma debolmente. Bang! Mr. Dedalus lo fissava. Guardalo, disse. È istruttivo. Vorrei sapere se ci permetterà di parlare. Ne hai degli altri, babbo, disse Dilly. Ora vi farò vedere un bel giochetto. Disse Mr. Dedalus. Vi lascerò tutti dove Gesù lasciò gli ebrei. Guarda, questo è tutto quel che ho. Ho avuto 2 scellini da Jack Power e ho speso 2 pence per farmi la barba prima del funerale. Tirò fuori una manciata di monete di rame, nervosamente. Non puoi cercare un po' di denaro da qualche parte, disse Dilly. Mr. Dedalus pensò e annuì. Proverò. Disse gravemente. Ho cercato lungo tutta la cunetta di O'Connell Street. Ora proverò questa. Sei proprio buffo, disse Dilly sogghignando. Ecco, disse Mr. Dedalus, porgendo le due monete da un penny, prenditi un bicchiere di latte o un maritozzo o qualcos'altro. Io sarò a casa tra poco. Si mise le altre monete in tasca e si incamminò di nuovo. Il corteo del viceré, salutato da guardie ossequiose, uscì da Park Gate. Sono certa che hai un altro scellino, disse Dilly. L'imbonitore scampanellò forte. Mister Dedalus, in mezzo a quel baccano, si allontanò mormorando tra sé e facendo boccuccia gentilmente. Le monachine, tesoro ciccari. Oh, ma loro non ne vorrebbero sapere. Oh, certo che no, è la suorina Monica. Mister Kernan camminava dalla meridiana verso James Gate, soddisfatto dell'ordinazione ricevuta per Palbrook Robertson. Baldanzosamente per James Street, oltre gli uffici di Shackleton. Me lo sono lavorato a puntino. Come va, Mr. Crimmins? A meraviglia, signore. Avevo paura che fosse nell'altro esercizio a Plymico. Come vanno gli affari? Ci si difende. Bel tempo davvero, sì, proprio bello. Bene per la campagna. I contadini brontolano sempre. Prenderei un bicchierino del vostro gin migliore, Mr. Crimmins. Un bicchierino solo, signore. Sì, signore. Spaventosa quell'esplosione del genera Slocum. Spaventosa, spaventosa. Un migliaio di vittime e scene da spezzare il cuore. Uomini che hanno calpestato donne, bambini, roba da selvaggi. Che cosa dicono che l'ha provocata? Combustione spontanea. Scandalosissima rivelazione. Non un solo battello di salvataggio teneva l'acqua e le pompe tutte scoppiate. Quel che non capisco è come abbiano fatto gli ispettori a permettere che una nave in quelle condizioni. Questo sì che è parlare, Mr. Crimmins. Sa perché? Hanno unto i cardini. Davvero? Senza dubbio. Ma guarda un po'. E poi dicono che l'America è la terra degli uomini liberi. E si dice che le cose vanno male qui. Gli ho sorriso. L'America, ho detto piano, proprio in questo modo. Che cos'è? La spazzatura di ogni altro paese, compreso il nostro. Non è vero, forse? È un fatto. Intrallazzo, caro signore. Beh, si capisce. Dove ci sono soldi in giro, c'è sempre chi è pronto a raccattarli. Ho visto che mi guardava la finanziera, il vestito e tutto. Non c'è come essere ben vestiti, li stendi a terra. Olà, Simon, disse padre Coli, come si va? Olà, Bob, vecchio mio, rispose Mr. Dedalus, fermandosi. Mr. Kernan si fermò a sprimacciarsi davanti allo specchio inclinato di Peter Kennedy, il parrucchiere. Giacca di stile, non c'è che dire. Scott di Dawson Street. Valeva bene la mezza sovrana che l'ho pagata a Neri. Non sarà costata meno di 3 guinee. Mi sta a pennello. La deve aver portata qualche elegantone del club di Kildare Street. John Mulligan, direttore della Banca Ibernica, mi ha dato una di quelle occhiate ieri sul ponte Carlyle, come se mi riconoscesse. Già. Bisogna vestirsi in carattere per quella gente. Cavalier d'industria. Un signore. Allora, Mr. Crimmins, speriamo che ci onorerà ancora dei suoi ordini, signore. Il nappo che allieta ma non inebria, come suona il vecchio adagio. Muraglione Nord e riva Sir John Rogerson, con carene e catene d'ancora. Veleggiando verso ovest, veleggiava un canotto. Un volantino accartocciato, cullato nella scia del vaporetto. Elia viene. Mr. Kernan dette alla sua immagine uno sguardo di commiato. Colorito acceso, si capisce, baffi brizzolati, ex ufficiale dell'esercito in India. Faceva bravamente avanzare il suo torso tarchiato sui piedi inghettati, squadrando le spalle. È mica il fratello di Lambert, quello sull'altro marciapiede, Sam? Come? Sì, gli assomiglia un frego. No, il riflesso del sole sul parabrezza di quell'automobile là, un lampo. Gli assomiglia a un fottio. I vapori del sugo di ginepro gli scaldavano il fiato e l'interiora. Un buon goccetto di gin, proprio. Le code della finanziera ammiccavano in pieno sole al ritmo del suo passo pesantemente pomposo. Laggiù Emmett fu impiccato, squartato e fatto a pezzi, nera corda unta, e i cani a leccare il sangue sulla strada quando passò nella sua carrozza la moglie del lord luogotenente. Vediamo un po'. È sepolto a St. Michael? No, no, ci fu una inumazione a mezzanotte a Glasnevin. Il cadavere fatto entrare da una porticina segreta nel muro. Ora c'è Dignam là. Andato in un batter d'occhio. Bah, meglio voltare qua. Fare una deviazione. Mister Kernan svoltò e infilò la discesa di Watling Street all'angolo della sala d'aspetto di Guinness. Davanti al magazzino della società distillerie dublinesi c'era una vettura senza cliente né vetturino, con le redini annodate alla ruota. Pericolosissimo! Qualche salame di Tipper Eric che mette in pericolo le vite dei cittadini. Cavallo imbizzarrito. Dennis Brin, coi suoi tomi, stanco di aver aspettato un'ora nell'ufficio di John Henry Menton, accompagnava la moglie sul ponte O'Connell, diretto allo studio di Collis e Ward. Mr. Kernan si avvicinava a Highland Street, i tempi delle sommosse. Devo chiedere a Ned Lambert se mi presta quelle memorie di Sir John Barrington, quando si ripensa a tutto quello che è accaduto ora, in una specie di inquadratura retrospettiva. La bisca da Delhi. Non c'era da barare allora. Uno di quei tali si trovò con la mano inchiodata da un pugnale sul tavolo. Da queste parti Lord Edward Fitzgerald sfuggì al maggiore Sir. Scuderie dietro a Moira House. Buono un fottio quel gin. Bel giovane di sangue blu e di fegato. Buona razza, si capisce. Quel farabutto, falso nobilotto coi suoi guanti violetti, fu lui a tradirlo. Naturalmente erano dalla parte del torto. Sono spuntati in mali e scuri giorni. Bella poesia quella, Ingram. Quelli erano signori. Ben Dollard cantava quella ballata in maniera toccante. Esecuzione magistrale. All'assedio di Ross cadde mio padre. Una cavalcata al piccolo trotto lungo la riva Pembroke passò. I battistrada caracollando. Caracollando sulle lor selle, marsine, ombrellini color crema. Mister Kernan allungò il passo, ansimando a piene gote. Sua eccellenza, che peccato, ho perso proprio per un pelo. Maledizione, peccato davvero.